si prepari Pozzo del Liscos e anche così. Un po' di silenzio per favore. Buongiorno a tutti, sono Carmen Sostragno e io faccio parte di quel, abbiamo sentito, di quel 50% invece di persone che è in FNP ma che è sempre stata all'interno del sindacato sul posto di lavoro, non in distacco, ma sul posto di lavoro, prima come delegata, poi come RSU e quant'altro. Quindi, andando in pensione, devo dire che invece finché ero tra gli attivi io avevo un luogo in cui, definito, in cui si portavano avanti le trattative, una controparte definita che era rappresentante della parte pubblica, degli obiettivi, il contratto e quant'altro. Andando in pensione chiaramente ho avuto un attimo di smarrimento, perché cosa contrattiamo? Non ho più datore di lavoro, non faccio parte di una categoria, nell'FNP ci troviamo tutti, siamo tutti provenienti dalle più diverse categorie, quindi un attimo di riflessione. Poi ho capito, seguito i corsi che l'FNP ha predisposto e mi si è aperta una riflessione. Non contratto più con il mio contratto con gli attivi, però esiste la contrattazione sociale, la contrattazione sociale territoriale, e quindi non mi occupo più solo dei miei colleghi, non mi occupo più di un determinato contratto, ma addirittura posso andare a presidiare la tenuta del welfare, ma poi oltre ho avuto degli altri spunti confermati dal congresso, bisogna fare attenzione partendo dalla territorialità, dal basso, dalla prossimità, dal territorio in cui ci troviamo, per fare perno e vedere di presidiare il welfare, andare a contrattare con le parti sociali, tutti quei discorsi che abbiamo già sentito finora ampiamente, perché tutti voi conoscete bene, avete parlato tutti di sanità, di servizi, di educazione, poco prima il collega ha parlato ampiamente dei problemi di cura, e in effetti noi come contrattazione sociale dovremmo occuparci di questi problemi, delle famiglie che sono a rischio di povertà, che sono sempre in aumento, dell'educazione, delle famiglie che hanno problemi di carichi di cura, e sono tante, abbiamo sentito già proprio in tutti i nostri interventi oggi quanto sia pressante la situazione. E una cosa mi conforta, almeno in parte, ho letto sull'osservatorio della CISC che laddove c'è una consolidata contrattazione sociale c'è più propensione da parte dei comuni, delle province, ad investire nel sociale. Cioè, non so se è un deterrente o se siamo bravi noi ad ottenere che non si disinvesta dal welfare, che si investano anzi, si contengano le tariffe dei rifiuti, le tariffe delle mense scolastiche, eccetera. Non lo so, comunque questo è un dato che conforta. Allora vuol dire che la nostra presenza è effettivamente utile, che noi serviamo per un'inclusione. E parlando di inclusione mi riferisco a quanto aveva già detto nella relazione la nostra segretaria Partelli, perché in effetti dovremmo proprio fare questo, partire dalla famiglia, dall'educazione, dalla scuola, per cercare di includere tutti, anche i più deboli. Quelli più forti si sanno già difendere da sé, quelli più forti, è chiaro, accedono alla sanità con mezzi propri, mandano i figli alle scuole private anche pagando molto, frequentano un'università privata. Noi dobbiamo invece essere presenti per tutti gli altri che sono più deboli. Un welfare quindi partecipato, diffuso. E poi mi si consente anche un'altra piccola riflessione, ne ho mica. il problema nostro come sindacato è di non essere da soli come FNP quando andiamo a fare queste trattative, di avere la collaborazione dei confederali, degli attivi, e qui però mi sembra che in alcuni casi ci sia, altre volte no. E poi l'altro problema è pubblicizzarci in qualche modo, perché molte volte noi andiamo a stilare degli accordi, presidiamo determinati, e poi non lo sa nessuno. Qualche volta il sindaco, che so, non si presenta, come è capitato. E secondo me, difatti, la mia strategia sarebbe, sono da poco in segreteria, perché non lo sapesse, ad Alessandria Asti, e ho la delega per la negoziazione sociale. E mia intenzione è di pubblicizzare al massimo questi nostri interventi, anche piccoli, piccolini. Una scoperta che ho fatto proprio di recente, alla mia prima uscita, alla mia prima incontro pubblico con il comune di Nizza Monferrato, è che il sindaco, che ha disertato tranquillamente l'incontro, quando io ho detto timidamente ma vorrei fare, c'erano i vari assessori, quando, vorrei fare una foto da pubblicare su Facebook, pensavo che, non dico che mi mandassero proprio a stendere, ma che facessero un po' i ritrosi, che mi dicessero no, io come responsabile dei servizi, no. E invece no, si sono messi tutti in posa, tutti in fondo al tavolo, tutti contentissimi, si sono fatti fotografare tutti, mi hanno chiesto quando l'avrei messo su Facebook e quant'altro, alla faccia del sindaco che non c'era. Quindi, e io dico solo questo perché voglio sempre essere breve. Raccolgo la sfida da neofita, spero di far bene, e vorrei, la prima cosa mi è piaciuta, tra 4 anni vorrei che la Rosina Partelli potesse dire di me quello che ha detto stamattina di Stefano. Guarda quanto è cresciuta sta soprano.